goes by so slowly. Time goes by so slowly. Ci siete? Noi ci siamo! Siamo in diretta su CRMP Radio con Jerry e Rosy all'interno di Talk Talk! Eccoci qua! Buon pomeriggio a tutti quanti! Che sia davvero un buon pomeriggio, pieno di sole, guarda sì. Che bella giornata oggi! Oggi una bella giornata! Allora, ricordiamo i nostri numeri di telefono per poter interagire con noi, che sono... Lo 0921 92 32 92, potete mandare messaggi anche al 335 56 37 251. Potete seguirci in diretta streaming sul sito www.crmpradio.it oppure su Facebook, dove poter fare, perché no, le vostre richieste e chattare anche con noi. E noi vi aspettiamo in moltissimi. Sicuramente, allora pronti per cominciare? Andiamo subito a sentire, ad ascoltare. Vi diamo il nostro benvenuto. Esatto, il nuovo singolo di Laura Pausini, Benvenuto. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero. Tue scarpe fradice, a chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, a chi non ha un segreto da sussurrare ma una bugia da sciogliere, chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che commuove, a un cielo che promette neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli con i tuoi. Benvenuto a un treno verso il mare e che arriva in tempo per Natale. Diretta su CRMP Radio Talk Talk, un programma di Rosy e Jerry. It's my party, I cry if I want to, cry if I want to. come before. Coffee burns and blisters. I learned the hard way again. Judy and Johnny just walked to the door. Like a queen with a king, yeah. Oh, what a birthday surprise. Programma che bussa alle vostre porte per tenervi compagnia. Ogni cosa che tocchiamo e ci passiamo è un respiro che ci dà una vertigine. E noi siamo ciechi, siamo sordi come se non stesse succedendo niente. Abbiamo sarcasmo e tanta acidità per le persone che ci girano attorno, io e te, ci regaliamo stima e rispetto, poi ci sfioriamo come amici con il cuore coperto. Le nostre storie segrete sono sbandierate strategicamente, le nostre storie segrete. Paura di bruciare ora. Innamorarsi senza accorgersi, questo è il nuovo singolo della nostra cantante italiana, che era da un po' che non si faceva sentire. Sì, ogni tanto scompare, poi ritorna. Poi ritornano. Direi con un bel singolo, dai, simpatico. Sì. Bello, bello, carino, mi dice piace. Dice la cosa vera, d'altronde, innamorarsi senza accorgersi. A proposito di amore, sentiamo. Andiamo a vedere cosa dicono... Gli astri? Ancora ascolta, mi ero preoccupata. Io ho già detto, mamma mia, che è successo, amore? Andiamo a vedere cosa dicono gli astri? Sì, sì, sì, sì, dai, cominciamo come l'altra volta. È interessante la cosa. Ariete. Andiamo con l'Ariete. Nella giornata di oggi sì che vi divertirete. Ci sarà davvero molto da ridere. Vi prenderete qualche rivincita, ma attenti a non fare troppo i furbi, poiché tutto vi si ritorce contro se adopererete la cattiveria o la malizia. Di tanto in tanto è uno sport che vi piace praticare, ma non piace molto alle persone che vi sono intorno e che non apprezzano certi tiri bassi. Ai ai ai, arietini, state attenti allora, mi raccomando. E i toro che cosa devono fare? Vediamo, sentiamo. Lo leggiamo. Quando sarete più in forma potrete dedicarvi meglio alle attività sportive che preferite, ma in questo momento dovete ancora fare conti con questa stagione. Non crucciatevi troppo nemmeno del tempo che passa, in quanto è inevitabile che passi, tuttavia non ci sono motivi per essere poco disponibili nei confronti delle persone che vorranno solo parlare e che non c'entrano nulla con i vostri pensieri. Essere o non essere, questo è il problema. Esatto, cari amici del Toro, bene. Poi a mano noi durante il nostro programma andremo a leggere altri segni. Adesso andiamo ad ascoltare Michael Jackson con I Like The Way You Love Me. I was alone in the dark when I met you. Con I Like The Way You Love Me. Bella anche questa. Certo, sempre d'amore si tratta. Il grande Michael Jackson. Bene, bene, bene. E noi continuiamo con il nostro oroscopo. Sì, andiamo adesso a leggere i gemelli. Sì. Nell'odierna mattinata, diciamo oggi pomeriggio, già siamo nel pomeriggio, potreste trovare qualcosa di meglio da fare piuttosto che perdere il vostro tempo ad andare dietro le persone che nulla meritano da voi. Prendetevi cura dei vostri figli, del vostro partner o dei vostri genitori, o meglio ancora dei vostri migliori amici, ma tralasciate tutte le richieste provenienti da persone che vogliono solo sfruttarvi. State attenti allora, cari amici. Ai, occhi aperti allora. E per il cancro vediamo un po' cosa dice. Se la vostra situazione sentimentale non vi soddisfa, questo è il giorno giusto per infischiarsene e passare il vostro tempo pensando solo a voi stessi, quindi siate un po' egoisti, cancretti. Oppure facendo le cose che vi piacciono di più. Sicuramente, anche senza volerlo, alla fine inizierete ad analizzare ogni aspetto del vostro rapporto e quindi capirete cosa in realtà non vada. Bene. Quindi un po' di attenzione, un po' di egoismo, un pizzico di egoismo ogni tanto. Un po', ecco la ricetta giusta. Certamente. Bene. E adesso cosa abbiamo? Ma che cosa abbiamo? Che discorsi fai? Cosa abbiamo in pentola? Nel pentolone oggi cosa abbiamo messo? Ma che dici? Ma che discorsi fai? Dai, che discorsi? Ma che discorsi vuoi che faccia? Scusami. Basta, diamo il tempo a Daniele Silvestri di spiegarci lui che discorsi fa. Esatto. Quindi Daniele Silvestri con Ma che discorsi? Se pensi che sia logico scoprire in mezzo al traffico di amarsi in modo cosmico, ma un attimo che poi lo metri dopo, l'amore sembra consumato già. Lo so che non ti piacciono le situazioni in bilico, le cose che succedono e succedono, lo so, ma che discorsi? Sei tu che butti sempre tutto giù. Ma che discorsi? Nel dubbio che poi non funzioni più, così fai tu. E poi con quello che succede in una storia come questa, non è che ti puoi chiedere se sia la strada giusta ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è. So che non coincidono le previsioni e l'esito, le obiezioni in merito, le immagino però, perché fermarsi? In radio c'è anche un pezzo che mi va. Ma che discorsi, scusa, la strada forse è chiusa, non si sa da dove viene, tanto meno dove va. Ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore aspetta. Gira di qua, gira di qua, gira. Poi con quello che succede in una vita come questa, forse è meglio se la strada non è proprio quella giusta. Sì, con quello che succede, quello che si vede intorno, non dobbiamo riconoscere la strada del ritorno. Ad ogni angolo, ogni semaforo, semaforo che c'è. Daniele Silvestri, ma che discorsi? Hai capito che discorsi fa Daniele Silvestri? Tutti i suoi. Noi li abbiamo capiti tutti, bene bene. Sì, ballando. Ballando. Andiamo avanti con il nostro oroscopo. Sì sì, che mi incuriosisce tanto e tu sai perché. Sì, andiamo a leggere il leone. Ecco. Se in questa giornata vi verrà concessa la possibilità di rimediare ad un errore che avete già commesso in passato, sicuramente porterete a termine tutte le vostre questioni con grande fervore. Non volete perdere un'altra volta quanto vi sarebbe in realtà dovuto anche senza fare nulla. È giusto quindi impegnarsi per qualcosa che vi porterà al successo. Avete capito, cari amici del leone? Sì, sì, ho capito. Quindi hai capito, Rosy? Sì, mi devo impegnare tanto. Bene. Invece la Vergine, vediamo un po' che dice. Se nella giornata di oggi ci potrebbero essere delle questioni che vi riguardano molto da vicino e che potrebbero farvi perdere un po' del vostro prezioso tempo, del resto si tratta di voi stessi. Quindi non dovreste reagire come se non vi riguardasse, poiché sarebbe un peccato perdere delle occasioni o comunque non concedersi una possibilità per migliorare se stessi. Ecco qua, State attenti anche voi della Vergine. Quindi bisogna prestare attenzione a tutto e soprattutto bisogna pensare a se stessi. Sì, torniamo al discorso dell'egoismo. Oggi no, però oggi troppa scuola brutta facciamo. No. Cioè l'egoismo no, è brutto dire l'egoismo. Non ci piace. Però questo è. Lo so. Bisogna pensare a se stessi. A se stessi? Sì. E noi continuiamo con la buona musica sempre in diretta su CRMP Radio. Katy Perry con Firework. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show them what you're worth, make them go as you shoot across the sky. Talk Talk, un programma di Rosie e Jerry. Our time has been running out, and there ain't no way to catch you now. Let's say goodbye and walk it out. Was I hard to love? 'Cause I just can't seem to find enough. I think this is the end of us. Finish line. Yeah. Turning me, future blinding, your eyes dying. con Finish Line. Bellissima sta canzone, mi piace. Carina, sì, anche a me, molto nuova questa. Sì. Bella, bella, mi piace, ci piace. Ma mettiamo sempre musica nuova e anche un po' vecchia per tornare indietro nel ci tempo. Ci vuole, giusto. Quando eravamo bimbe o addirittura, perché no, anche quando non eravamo nate, pensa un po' te. Già. O quando non ero nata io. E tu per invece c'eri. Vabbè, comunque bilancia, volevo sapere bilancia, cortesemente. Andiamo a leggere la bilancia. Nell'odierna giornata non c'è alcuna possibilità di scelta e dovrete per forza di cose conformarvi a quanto già messo in atto dalle persone che vi circondano e che si dicono vostre amiche. Forse dovreste rivalutare un tantino le vostre priorità in fatto di amicizia o di conoscenze, in quanto non è giusto che vi intrappolino in situazioni nelle quali non sareste mai entrati. L'amicizia è importante, cari bilancia. E Scorpione, invece, ciò che avete in mente in questa giornata probabilmente potrebbe portarvi a considerare in altro modo dei progetti che sono già stati avviati. La vostra rivoluzione è un po' troppo ambiziosa per il momento, ma ciò non toglie che potreste comunque parlare con qualcuno e vedere se c'è il terreno fertile per far attecchire le vostre genialiate. Genialate. Sì, è difficile questo genio della lampada che dice genialate. E andiamo avanti. Continuiamo. Anzi, cominciamo con le nostre richieste. Sì, andiamo avanti col nostro programma, cominciando con le richieste. Ad accontentare le richieste dei nostri CRMini. Esatto, e andiamo ad accontentare una nostra affezionatissima radioascoltatrice, Patrizia. Proprio perché dicevamo che andiamo un po' indietro nel tempo. No, per Patrizia, che è cioè, nel senso che ascolteremo una canzone. Sì, andiamo un po' indietro nel tempo, andiamo ad ascoltare la grandissima voce di Mina con il brano Se telefonando. Telefonando, questa era la richiesta da parte di Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao, che bello essere tornati indietro nel tempo. Poi la grande voce di Mina, voglio dire, È un sempre, nome è una garanzia, direi. È sempre direi. Un piacere, una grande artista italiana. Bene. Bene. Bene, andiamo avanti con il nostro oroscopo. Siamo arrivati al segno del Sagittario. State attenti. Allora, il lavoro per voi ha quasi sempre la priorità, soprattutto se oltre ad essere una professione è anche una passione. Lo studio continuo e la perseveranza vi aiuteranno sempre a migliorarvi, ma di tanto in tanto dovreste anche guardarvi attorno e considerare le persone che sono lì ad attendere, che prestiate almeno uno sguardo compassionevole. Non chiudetevi sempre nel vostro mondo. Capito, Sagittario? Invece gli oroscopo, il Capricorno, l'oroscopo del Capricorno. Se non avete altri impegni in giornata oltre al vostro lavoro, è ben possibile che possiate un tantino prendere delle decisioni che riguarderanno anche la vostra vita privata. Ultimamente abbandonata, questa inizia a dare segni di sconforto che vi si leggono in faccia. La mancanza di amore, infatti, trasforma i volti molto più velocemente del tempo. Oh, curatevi, prestate un po' di attenzione a voi stessi, Capricorno. Non state è possibile, attenti. Vi state buttando troppo a terra. Mi sento Paolo Fox in questo momento. Sì, basta. Lo inviteremo a venire qua in studio da noi a CRM proprio a leggerci il suo oroscopo in diretta proprio. Sì. Vediamo se riusciamo a contattarlo in questi giorni. Ci proviamo, che dici? Sì, infatti, ci organizzeremo. Ci organizzeremo. Adesso andiamo ad ascoltare la prossima canzone, David Guetta con Without You. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you. Senza di te, come farei qui? Non puoi stare. Non posso stare, sì, vabbè. No. No. Lo vuoi letto l'oroscopo dell'acquario? Sì, l'acquario mi ricorda qualcosa. Ti incuriosisce molto, presumo. Direi di sì. E allora ti dico che nella giornata di oggi sarete molto sprint. Vero. E tenterete di darvi però delle arie. Ma... in ambito professionale potreste avere molto successo con tale atteggiamento, ma in altri ambiti raramente otterrete qualcosa. Le persone infatti odiano la presunzione, soprattutto se proveniente da persone che solitamente risultano essere simpatiche ed alla mano. Sarebbe quindi come un tradimento. Ma... Acquarietta? Acquarietta, sì. Stai attenta. Sì, con questa tua arietta... Ma quando mai? Da Severetta. Ma non è vero. Stai attenta. Non è mica vero. Va bene, come dici tu, dai, allora andiamo avanti con i pesci. L'ultimo. L'ultimo per oggi. Nella giornata odierna potreste provare a parlare con la persona che vi sta vicino, illustrandole tutto quello che non va nel suo modo di fare. Non è detto infatti che siate sempre affiancati da persone perfette che capiscano e riconoscano quale sia il loro limite o i loro difetti. Inizialmente dovrete anche portare pazienza ed in seguito scatenare la vostra ira. Wow! Mamma mia che oroscopo oggi, eh! Eh già! Bello e proprio! E noi continuiamo con le nostre richieste. Andiamo ad accontentare il nostro carissimo amico Gaetano, che salutiamo. Ciao Gaetano! Ciao Gaetano! E andiamo ad ascoltare... Tiziano Ferro, il nuovo singolo La differenza tra me e te. La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E te molto passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro che sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, me e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa. Penso sia un errore, io ho tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. E te, elementare, non volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. Spegne i tormenti, le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, oh, me e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è, e penso sia bellissimo. Tiziano Ferro, La differenza tra me e te. Questo appunto è il nuovo singolo, già record di download sul web, primo estratto dal nuovo album L'amore è una cosa semplice, che arriva a 3 anni dall'uscita di Alla mia età. L'amore è una cosa semplice, infatti contiene 13 canzoni inedite ed è stato registrato a Los Angeles. E vanta collaborazioni illustri, dai cantanti italiani Rene Grandi e Nesli ai musicisti americani Mike Lando, Vinnie Colaiuta e Reggie Hamilton. E salutiamo naturalmente il nostro amico Gaetano che ce l'aveva richiesta. Ciao Gaetano! Grazie per averci fatto questa richiesta, perché adesso, è stata una bella canzoncina. Sì, esatto. Adesso ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità, ma ritorniamo subito, sempre qui in diretta su CRMP Radio con Tok Tok, naturalmente in compagnia di Jerry e Rosy. Aspettate! Il programma che bussa alle vostre porte per tenervi compagnia. Once upon a time, people were living so peacefully, living on the smile and sharing what was all around. One day came a time money could even buy your soul. Yes, one day came a time. Yeah, the evil of all, these are my worries. So long as I am here, but I'll never worry. So long as you are near, these are my worries. So long I'm here, but I'll never worry so long. Yeah. Once upon a time, people were living so happily, living on the keys and sharing what was all around. But one day came a time by your heart. Yes, one day came a time. The evil of all, these are my worries. So long as I am here, ah, but I'll never worry. So long as you are near, these are my worries. So long as I am here, con Once Upon a Time. C'era una volta qualcosa che non si sa che cosa, ma questa nuova canzone l'abbiamo messa apposta per voi. Esattamente, nuova, nuova, fresche, fresche di giornata. Sì, va bene. Come te, come te. Che vorresti dire? Non ho capito. No, niente. Intanto, continuiamo con le nostre richieste. Ricordiamo i nostri numerini? Sì, continuando con le nostre richieste, possiamo ricordarvi che i nostri numeri per farle sono lo 0921 92 32 92. Il 335 56 37 251. Vi ricordiamo inoltre che potete vederci in diretta streaming su www.crmpiradio.it. Oppure potete seguirci su Facebook, dove potete chattare con noi, fare commenti, quello che più vi pare. Guarda, siamo talmente importanti che diamo spazio ai nostri radioascoltatori per chattare con noi su Facebook. E detta noi lo così, facciamo. Detta senso... così proprio ci sembra che ci vantiamo tantissimo, ma in realtà è semplicemente no, per le richieste. Stare in compagnia, tenervi compagnia e fare avere fantasia per le richieste che i nostri CRMini vogliono farci. Certamente. E noi a proposito di richieste, andiamo ad accontentare una nostra amica, Chiara, e andiamo ad ascoltare Modà con Salvami. Buon ascolto, Chiara. E va sempre così, che tanto indietro non si torna. E va sempre così, che parli ma nessuno ascolta. E va sempre così, che vuoi cambiare ma non servirà. Soltanto una promessa. Il programma che bussa alle vostre porte per tenervi compagnia. You got a quick snap lock on your cold, cold heart. You got your YSL kicks and a red birthmark in the shape of Canada that you try to keep a secret. You got a click clack walk and a cold hot stare. Say they just don't care before they wander off to hide inside their socket. Toc Toc, un programma di Rosie e Jerry. Condannate a non lagnarsi mai, il maschio innamorato se lo fa. È un meccanismo inafferrabile. Yeah. Voce nera, l'amore è un gioco e siamo di nuovo qui, sempre in diretta su CRMP Radio. Sono le 18:20, ecco, proprio per essere precisi. Toc toc. Toc toc, naturalmente sempre in compagnia di Jerry e Rosy. Eccoci qua, sempre pronte ad accontentare tutte le vostre richieste. Sempre pronte ad accontentare le vostre richieste nel momento in cui voi chiamate lo 0921 92 32 92 o il 335 56 37 251, oppure ci guardate su streaming al www.crmpradio.it o su Facebook, il portale Facebook, lo sapete ormai, siete bravi, ormai siete più bravi di noi. Bene, adesso vi ricordo che tra pochissimi minuti ci sarà il nostro consueto appuntamento con il Cinema Time, due film, due colonne sonore, quindi state sempre sintonizzati su CRM. E adesso andiamo ad accontentare una richiesta, ci ha chiamato Paolo, che salutiamo, ciao Paolo, e andiamo ad ascoltare degli Dirty Money, Skylar Grey, I'm Coming Home. I'm coming home, tell the world I'm coming. I'm back where I belong. Yeah, I never felt so strong, and I'm back, baby. I'm feeling like there's nothing that I can't try. Nothing. And if you with me, put yeah. your hands put high. Put your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This and if you with me, put your hands and high. You, the dreams are filled, you're rocking with the best. Yeah. I'll be on and the you. I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they talking to me when it comes on. Come on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone. Go. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be pumped, but it's harder to be shown. What if my twins ask why I ain't married a mom? Why? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown. Another night, the inevitable prolong. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the mold. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I I'm belong. Coming home. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Ain't no I know pain. My kingdom. Check this out. A house is not a home, I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw right. it. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it or conceal it. But you deal with it and you keep ballin'. That's why awesome looking playboy and we keep ballin'. Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own home. Come it's on. Time to make your house your home. Pick up I'm the phone, pick up home. The phone. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Oh. Yeah, ain't no stopping us now. I love that song. Whenever it comes on, it makes me feel strong. I thought I told y'all that we won't stop. Till we back cruising through Harlem. These old blocks is what made me, saved me, drove me crazy. Drove me away, then embraced me, forgave me for all of my shortcomings. Welcome to my homecoming. Yeah, it's been a long time coming. A lot of fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars, a lot of ups, a lot of downs. Made it back, lost my dog. I miss you, babe. And here I stand. Come on, a better man. Don't stop. Better man. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm coming thank you, home. Home. I'm coming home. Oh. Tell the world that I'm coming home. I'm coming home. Let the rain wash away feel so all good. The pain of yesterday. Feel so free. I know my kingdom ain't no place like home, away. Baby. And they're forgiving ain't no place my like mistakes. Home. Didi Dirty Money, Skylar Grey, I'm coming home. Sto tornando a casa, sto venendo a casa. Vero? No, la canzone voleva dire così, però sicuramente credo sia una speranza, un augurio, un desiderio che Carla Bruni dentro di sé per ora sta esprimendo. Eh sì, noi vi ricordate qualche settimana fa abbiamo dato la notizia che Carla Bruni era stata ricoverata in ospedale. Ma per... non solo noi, un po' tutti dando questa notizia. Stiamo là tutti a guardare, ad aspettare questo lieto evento che ancora non arriva. Non arriva, non se ne parla. Forse però... oggi è la volta buona? Ma chissà. Perché anche oggi Carla Bruni è stata ricoverata all'ospedale La Muette di Parigi. Sì. E tutti i fotografi, gossip, paparazzi e roba varia sono tutti là sotto in attesa che nasca. Forse Nicolas Sarkozy apra la finestra e dica: è nato, tipo Abemus Papam. Lui dice Abemus Filium. Sì. Vabbè. Ok, basta. Comunque sì, speriamo insomma che... Basta vedere, filium o filia? Perché c'è questo punto interrogativo adesso anche. Sì, va bene, andremo a... Non si sa ancora in effetti perché no, le voci... No, avevano questo dubbio. C'erano un po' di voci, che sia maschio, che sia femmina, non si sa. Cosa ci giochiamo? Scommettiamo, Jerry? Scommettiamo. La prossima volta poi... Una cena. Va bene. Io dai. Dico che è femmina e tu dici che è maschio, maschio ovviamente. Certo, grazie, bene. Bene, continuiamo con le richieste. Adesso sì. Era Caterina che ci richiedeva una canzone di Max Pezzali. Questa è bella, molto sì, bella. Sì. So che anche è un tuo cantante preferito. Sì. Infatti quindi accontentiamo questo... sia Caterina che te praticamente. Oh, grazie, che sei dolce. Sì, grazie, lo so. E andiamo ad ascoltare allora Max Pezzali con quello che comunemente noi chiamiamo amore. Forse non è altro che un paradosso, un'illusione, qualche cosa di cui tutti hanno sempre scritto, senza veramente mai sapere come fosse fatto, anche perché guardo fuori e fuori non ce n'è. Un milione di persone, però lui non c'è. Separati con le cuffie nelle orecchie, persi in una collettiva solitudine. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere. But there's one thing I have to say, don't worry about yesterday. Yes, I'll be your man, you better understand. And I promise that my love you can't forget. Cause hey, this is my time. Love will never die, yeah. E se invece fosse solo un senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. E se fosse l'unico motivo che c'è, il significato ultimo per cui vivere fino in fondo il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. Toc, il programma che bussa alle vostre porte per tenervi compagnia. Finalmente piove su di me, la pioggia copre questo piangere. Scoprono la notte e il giorno e scivolano, se fossi grande come il cielo ti avvolgerei con il mio spirito, ma sono stato meschino e sto fermo aspettando la notte. Su di me la pioggia copre questo piangere, resta sul silenzio e tra le mani solo ricordi di questo piangere, piangere, piangere, piangere, piangere, piangere, piangere, piangere, piangere. Ma sei come un raggio di sole. Le vibrazioni con raggio di sole. In effetti oggi c'è stato un bel raggio di sole. E ora lo abbiamo salutato. Proprio in questo istante si intravede il tramonto che è giunto al suo termine. Esatto. Ma, che romanticismo. E allora siamo arrivati al nostro consueto appuntamento con il Cinema Time. Sì. Oggi abbiamo scelto due bellissimi film e quindi altrettanto due colonne sonore. Allora, Shall We Dance come colonna sonora Pussycat Dolls Sway e Giselle Dicol e Pilar Montenegro con A Wanna Shall We Dance, e poi l'altro film italiano, Ricordati di me, colonna sonora cantata da Elisa, Almeno tu nell'universo. Allora partiamo subito con la prima, Shall We Dance, andiamo ad ascoltare la colonna sonora Pussycat Dolls con Sway. Cinema Time. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, dancers may be on the floor. Yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hang smooth, sway. Con Sway, questa è una delle colonne sonore del film Shall We Dance. Senti che bella, grintosa, proprio bella, bella, bella. La prossima questa che qua anche andiamo ad ascoltare è di Giselle Dacol e Pilar Montenegro, I Wanna Shall We Dance. È un film del 2004 di Peter Chelsom, ispirato alla pellicola giapponese Vuoi Ballare. Attori protagonisti Richard Gere, Susan Sarandon e Jennifer Lopez. John Clark ha una vita all'apparenza perfetta, un lavoro soddisfacente, una moglie e una famiglia normale, troppo normale ed in realtà disinteressata a lui. La moglie è sempre presa da comitati di beneficenza e la figlia, con la tipica arroganza della giovinezza, gli fanno sentire ogni giorno di più una deludente solitudine. Infatti ogni giorno rientra a casa, sente che qualcosa manca nella propria esistenza. Una sera, dalla finestra di una scuola da ballo, con lo sguardo perso nel vuoto, incontra e vede una bellissima donna. Conquistato dal fascino della donna, John impulsivamente decide di entrare nell'edificio e si iscrive per alcune lezioni di danza nella speranza di incontrarla. All'inizio teme si sia trattato di un errore. La sua insegnante non è la bella Paolina, ma l'anziana Miss Mizzi, senza contare che John si rivela del tutto negato per il ballo da sala. A peggiorare la situazione ci si mette Paolina, che freddamente dice a John che spera che le sue intenzioni siano di imparare a ballare veramente e non tentare un approccio con lei. Man mano che le lezioni continuano, John finisce per appassionarsi al ballo, mantenendo la sua passione però segreta a famiglia e amici. John si prepara così a partecipare ad una delle più importanti competizioni da ballo di Chicago ed inoltre conquista la fiducia di Paolina. Il suo contagioso entusiasmo finisce per ridare linfa alla spenta passione dell'istruttrice nei confronti della danza. Tuttavia, più il tempo passa, più Beverly, la moglie di John, si mostra sospettosa. John dovrà fare salti mortali per tenere segreta la sua attività e così parteciperà al concorso di ballo. Bene, bene, bene, bravo, bravo. E noi facciamo Shall We Dance? Sì. Lasciamo ballare i nostri radioascoltatori con I Wanna Shall We Dance? Cinema Time. Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Questa è la colonna sonora del film Ricordati di me. È un film del 2003 diretto da Gabriele Muccino, attori protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Monica Bellucci, Silvio Muccino. La famiglia Ristuccia è apparentemente normale ed unita, ma ogni suo componente nasconde qualcosa. Carlo, il capofamiglia, vuole diventare uno scrittore, invece lavora per una società di assicurazioni. Giulia, sua moglie, è una professoressa di lettere che aspira a diventare attrice. Paolo, il figlio, è il solito insicuro che non riesce a dichiararsi alla ragazza che gli piace. Valentina è invece la classica ragazza che desidera diventare una velina ad ogni costo. L'ingranaggio si rompe quando Carlo incontra la sua vecchia fiamma Alessia e comincia una relazione extraconiugale. Da quel momento, Giulia cadrà nella disperazione più totale, distruggendo così tutto l'assetto familiare e perdendo il controllo sui figli. Bene, anche per oggi abbiamo concluso con il nostro Cinema Time, ma naturalmente l'appuntamento è per venerdì. E adesso cosa facciamo adesso? Andiamo ad ascoltare una bella canzone? Sì, movimentiamo un po' la situation. Laurent Berry and Sweet Kid con Hey Hey Hey. Hey, hey, hey, pop another bottle, fill every one cup. Hey, hey, hey. got cheese to the left, we'll roll another up. Hey, hey, hey. We don't give a damn, no, we don't give a what. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Supply and demand, supply the girls well because I'm the man. Drop jewels, every jewel is natural, babe. I ain't trying to be cool, I aim the shit. I drop shit, man, I pop shit while I pop champagne. I took off like rockets, man. Can't chase at this pace where I switch lanes. R&B, house, rap up. Girls bounce on my lap like a laptop. Cement thick girls make the ass drop. You and your team front at the backdrop. Guy, I heard enough, wax up. Y'all act sick, big deep and act hot. Blast this shit, tear the ground. STFU. Che bussa alle vostre porte per tenervi compagnia. Yeah. il mio giorno migliore. Sì, un bel giorno migliore per tutti quanti. Per tutti quanti noi, per tutti voi. Esatto. Senti, dica. A te piace cantare? A me tantissimo. Anche a me. Ci accomuna questa grande e bella passione. E a proposito di canto, di cantare, diamo un'informazione che anche a Cefalù si è aperta una scuola di canto, canto moderno e canto lirico. Per informazioni e per iscrizioni potete rivolgervi al numero 328 06 50625. Mi raccomando, fatevi sentire. Ci andiamo anche noi? Perché no? Sì, io insieme. Ci vorrei. Ci andiamo insieme, dai. Okay. Così cominciamo ad imparare bene come si canta. Ops, sento in sottofondo una canzone a me molto familiare. Ormai, direi. Sì, è la nostra sigla. Sì, sì, è giunto il momento di salutarci, però ricordiamo ai nostri radioascoltatori che al termine del nostro programma ci sarà la replica di Qua e Là, sì, tra una notizia e l'altra. E poi la nostra replica invece sarà domattina dalle 5.30 fino alle 7 circa. Bene, quindi mi raccomando, se avete perso qualcosina del nostro programma potete andarlo a riascoltare oppure potete comunque seguire tutto su internet, sul www.crmpiradio.it. Allora, ci vediamo, anzi ci sentiamo e ci vediamo comunque. Sì, venerdì. Se siamo su streaming in diretta ci vediamo anche venerdì. Stessa ora, stesso posto, stessa rete. Dalle 17 alle 19 con Toc Toc. Sempre in diretta naturalmente su CRM Radio. Con Rosy e Jerry. Un ciao grandissimo. Ciao ciao, buona serata, fate i bravi. Ciao. Avete ascoltato Toc Toc con Rosy e Jerry. Cos'è successo? Sei scappata da una vita che hai vissuto, una storia che hai bruciato e ora fingi che non c'è. Cos'è successo? Sei cambiata, non sei più la stessa cosa, o sei ancora quella che è cresciuta insieme a me? Cos'è successo? Sei scappata e conti anche la mia vita. L'ho cercata e l'ho trovata solo in te. Ma c'è qualcosa di grande. Se lo vuoi, ma c'è qualcosa di grande tra di noi che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Cos'è successo? Sei caduta? Sei caduta troppo in basso? La fortuna non ti ha mai abbandonata, ma ricordati il destino, non ti guarda in faccia mai. E c'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Ma c'è qualcosa di grande tra di noi che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Cosa fai? Che cosa hai?